falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Aberdeen, non quella in Scozia, è una piccola cittadina di 16.000 abitanti, è una cittadina grigia vicino a Portland nello stato di Washington. Bene, questo paesotto è famoso per una cosa sola: il 20 febbraio del 1967 qui è nato Kurt Donald Cobain, che è il frontman dei Nirvana, naturalmente una persona che interessa, ha interessato e interesserà ancora, e ce l'hanno chiesto in molti ascoltatori. Uno di questi è Filippo Montini, che abbiamo in collegamento. Buongiorno Filippo. Ciao Enrico, ciao. Senti, come mai Kurt Cobain? Ah, Kurt Cobain perché diciamo è stato il frontman del gruppo più, forse uno dei gruppi più importanti degli anni 90, se non il gruppo più importante. Non è stato solo comunque la musica che ha fatto, che comunque molti gruppi sono partiti suonando in Nirvana, ma ha anche creato una vera e propria moda, la moda del grunge, e anche tutti i ragazzi che comunque iniziavano a suonare grunge si vestivano in un determinato modo, certo. Seguivano i comportamenti, il modo di fare, di vestirsi di Kurt Cobain. Come me, anch'io sono passato. E tu in che anno sei nato? Io sono dell'88. Ah, perfetto. Quindi sì, ero un po' piccolo quando loro erano attivi, però diciamo che è stato proprio il primo gruppo che ho ascoltato. Grazie Filippo, allora rimani con noi e ti raccontiamo la storia di Kurt Cobain, o Kurt, chissà come dirò durante la trasmissione, un po' in un modo e un po' nell'altro. Tu come dici? Kurt. Va bene, allora faccio come te e dirò Kurt. Kurt. Ciao Filippo. Nel 1967 ad Aberdeen c'erano 27 bar che vendevano alcolici, in centro si vedevano molti edifici abbandonati, quelli che ospitavano bordelli prima che fossero chiusi a fine degli anni 50, anche in America hanno avuto la loro legge Merlin. Se oggi voi volete andare a vedere Aberdeen, che un tempo era un nodo ferroviario, uno snodo ferroviario importante, trovereste all'ingresso un cartello stradale verde scuro di benvenuto, con Welcome to Aberdeen. Come as you are. È così che la sua cittadina celebra l'illustre Kurt. Come as you are non è solo un invito a visitare la città, ma anche il titolo di un brano dei Nirvana. Tutto ha inizio nel 1967, quando il meccanico Donald Cobain e sua moglie Wendy diventano madre e padre. Arriva il piccolo Kurt, che è una furia, è attivo, energetico, sorridente già a 2 anni, fa capire ai genitori che ama la musica. Ascolta, imita, non sa leggere lo spartito, ma è talmente portato per le note che inizia a strimpellare la chitarra ancora prima di riuscire a parlare correttamente. Si crea un amico immaginario che chiamerà Boda. I genitori cominciano a preoccuparsi per il suo attaccamento a questo compagno fantomatico, ma non riescono a allontanarlo, tanto che nella sua lettera scritta prima di morire, Kurt si confiderà proprio con lui, Boda. Quando ha 3 anni nasce anche sua sorella Kim. La famiglia Cobain è una delle tante di Aberdeen, dove piove spesso, il cielo è sempre grigio, non ci sono attività, il tasso di suicidi è elevatissimo, ma questo Kurt non lo sa. Non sta mai fermo, è sempre curioso, preso da mille interessi, è talmente attivo che sua mamma, preoccupata, lo porterà dai medici, che gli prescriveranno il Ritalin ancora prima degli anni dell'adolescenza, quindi il piccolo comincia a conoscere gli psicofarmaci. Kurt sa cosa vuole fin da piccolo, ascolta i Beatles e Ramones, finge di suonare insieme a loro la chitarra, gli dice a tutti voglio diventare una rock star. A scuola si unisce all'orchestra dell'istituto, comincia a suonare il tamburo, i genitori capiscono che ha talento e gli fanno prendere lezioni di batteria, di pianoforte. Sui muri della cameretta del ragazzino compaiono scritte con nomi di band come Iron Maiden, Led Zeppelin. Oggi quella casa è in vendita, è stata messa in vendita dalla madre e dalla sorella a un prezzo di $500,000 nella speranza che l'acquirente la trasformasse in un museo. L'anno scorso una fan dei Nirvana ha lanciato una campagna di crowdfunding con quell'obiettivo, però oggi siamo ancora lontani dal raggiungere il tetto previsto, quindi se volete insomma potete contribuire a rendere la casa un museo, non sarebbe male. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah. Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando della famiglia Cobain ad Aberdeen nello stato di Washington, una famiglia felice in cui il giovane Kurt, il bambino Kurt, suona, canta, disegna, trascorre così i primi anni della sua infanzia. Poi nel 1975 tutto questo si spezza, arriva il divorzio tra Wendy e Donald, è una crepa incredibile nell'anima di Kurt Cobain e in quell'anno lui tocca per la prima volta il fondo, perché sente la tristezza, il dolore e il senso di impotenza di fronte a un evento che lui non può controllare. Il suo carattere estroverso scompare in poco tempo e arriva un Kurt completamente diverso, un bambino triste, silenzioso, che deve dividersi tra mamma e papà e comincia a 9 anni ad avere attacchi depressivi. E anche i suoi genitori cambiano e così la vita del piccolo peggiora, lo salva la musica, arriva l'heavy metal, come spesso accade quando hai un disagio, sei ragazzino, vuoi reagire, urlare al mondo la tua rabbia, e allora c'erano i Black Sabbath, c'erano i Kiss, e lui intanto va a vivere con la mamma, poi va a stare dal padre e inizia una causa giudiziaria al termine della quale verrà affidato a lui, a Donald. Quindi è il classico bambino americano sballottato da una parte all'altra, con un divorzio che ha un impatto su di lui che lui non supererà mai. La madre capisce che il figlio ha subito un colpo molto duro, sui muri del bagno di casa ci sono i segni di quella sofferenza, perché lui scriverà una frase che non ha bisogno di alcuna interpretazione. Odio mia madre, odio mio padre. Mio padre odia mia madre odia mio padre. È semplice, vogliono che io sia triste. Nel 93, quando Kurt ha 26 anni, a proposito di quel periodo così travagliato, parlerà così a un giornalista. Per qualche ragione me ne vergognavo. Mi vergognavo dei miei genitori. Non riuscivo più a guardare in faccia alcuni dei miei compagni di scuola, perché desideravo disperatamente avere una famiglia normale. Mamma, papà, volevo quel tipo di sicurezza. E lo rinfacciai ai miei genitori per parecchi anni. Il rapporto col padre non fila liscio, anzi precipita quando il padre decide di sposarsi con la sua nuova compagna, da cui tra l'altro nel 79 avrà un figlio di nome Chad, il fratellastro di Kurt. Lui è uno degli allievi più in vista della scuola, viene selezionato per un profilo nel numero del 26 ottobre 79 del giornale studentesco ciclostilato Pappi Press. La rubrica si intitola Polpetta del mese e in quella puntata parlava così di Kurt. Kurt è al 7° anno, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. La scuola gli piace. Le sue lezioni preferite sono quelle di musica e l'insegnante che gli piace di più è il professor Hepp. Il suo cibo preferito è la pizza e la bevanda la Coca-Cola. La sua frase preferita è «Scusati». La canzone che gli piace di più è «Don't Bring Me Down» degli Electric Light Orchestra e il gruppo preferito è Meat Loaf. La trasmissione televisiva che preferisce è Taxi e l'attore è Burt Reynolds. Insomma, a scuola Cobain si fa notare, è molto bello, un po' gracile, entra a far parte della squadra di wrestling, poi in quella di baseball, però la sua passione è un'altra, lo sappiamo, è la musica. A 14 anni si fa regalare una chitarra e impara a suonare il riff di Back in Black degli AC/DC, però suona in un modo particolare, con l'amplificatore al massimo, l'amplificatore che diventa il prolungamento della sua rabbia. Inizia a scrivere delle canzoni. Intanto prende sempre le compresse di Ritalin per calmarsi, però ha capito che la musica è la sua unica terapia e la sua vera strada. Durante le superiori incontra un ragazzo che suona il basso in un gruppo locale, i Melvins, suona le cover degli Who, di Jimi Hendrix, frequenta i componenti della band, li accompagna ai concerti a Seattle a 2 ore di macchina da Aberdeen. Siamo nell'86, Kurt ha 19 anni e nasce il suo primo gruppo, i Fecal Matter, dove lui canta, suona la chitarra e poi comincia a registrare alcuni pezzi con i nastri che dà a quel ragazzo che suonava il basso, che si chiama Chris Novoselic, e lo invoglia a suonare qualcosa con lui. Intanto il rapporto con i genitori viene interrotto bruscamente, inizia una vita da nomade, lascia la scuola e la madre gli dà un ultimatum: o ti trovi un lavoro o esci di casa. E lui esce di casa, sceglie la seconda opzione. Nel giro di pochi giorni si trova con tutte le sue cose negli scatoloni, dormirà da alcuni amici, a volte nascosto nel seminterrato di casa e anche sotto il ponte che congiunge Aberdeen a Cosmopolis. Dirà così di quel periodo: avevo sempre desiderato provare l'esperienza della vita di strada, visto quanto era noiosa la mia vita di adolescente ad Aberdeen. Ma non fui mai abbastanza indipendente per farlo. Facevo la fila per il buono viveri, vivevo sotto un ponte. Alla fine mi trasferì a Olympia. E da questa esperienza nascerà la canzone Something in the Way, contenuta in Nevermind. Bobby. Intanto la sua stanza diventa il suo santuario. Quando riesce a rientrare in casa è travolto dalle emozioni, come scriverà anni dopo in un diario. Ogni volta che torno sono gli stessi ricordi déjà vu che mi fanno rabbrividire. Depressione assoluta, odio assoluto e rancori che durano mesi. Vecchi quaderni contenenti disegni di rocker che suonano la chitarra, mostri e frasi in copertina come "su col morale", intricati schizzi di bong, alterazioni di battute sporche sull'allegra tennista. Mi guardo intorno e vedi poster degli Iron Maiden dagli angoli strappati, chiodi nel muro con ancora i berretti attaccati, il tappeto macchiato di sperma. Mi guardo intorno e vedo questa merda del cazzo che mi ricorda quanto è stata inutile la mia adolescenza. Ogni volta che entro nella stanza passo il dito lungo il pavimento e sento i residui appiccicosi di una serie di canne e sigarette. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la vita tormentata, la rabbia, la poesia di Kurt Cobain. Siamo arrivati alla seconda metà degli anni 80, il grande viaggio breve sta per partire. Lui intanto soffre di lancinanti mal di stomaco, sicuramente psicosomatici, e come spesso accade in questi casi l'unica apparente salvezza è il mondo della droga, prima la marijuana, poi l'LSD, gli analgesici analgesici derivati dall'oppio, e poi l'eroina e qualsiasi altro stupefacente reperibile in città. E il suo rapporto con le droghe è stata una decisione, dichiara, presa a causa dei propositi suicidi scatenati dal mal di stomaco cronico. Tutto l'inizio della tossicodipendenza a tutti gli effetti può essere collocato nel settembre del 91, e peraltro è il mese in cui esce Nevermind. Nell'86 Kurt viene arrestato anche per vandalismo. Ha scritto God is gay, Dio è gay, e Homosex Rules, potere agli omosessuali, su alcuni muri di Aberdeen. È un ragazzo sensibile ai temi caldi come il razzismo e l'omofobia, anche perché sua sorella Kim è lesbica, e lui ama, come dire, intanto difendere quelli che lui individua come deboli e anche provocare. Pensate che durante l'esibizione dei Nirvana al Saturday Night Live del 92, lui e Novoselic si baciarono in bocca con il solo scopo di fare incazzare gli omofobi, come dichiareranno in seguito. Però siamo ancora al momento in cui lui sta facendo lavoretti di ogni tipo, il bidello, l'insegnante di nuoto. Novoselic ascolta la sua musica, gli piace, è disposto a provare dei pezzi, così che si forma un gruppo di giovani musicisti che, dopo un valzer di nomi tra cui Skid Row, che poi verrà preso da altri, Bliss e Window Pane, alla fine si chiamerà definitivamente Nirvana, che anche mi sembra il nome migliore di tutti. Siamo nel 1987. Nel 1988 Cobain e Novoselic registrano il singolo Love Buzz, quello che stiamo ascoltando. Suonano in diversi locali rock e iniziano a fare quello che rimarrà un segno distintivo. Terminano i concerti con la distruzione degli strumenti per terra o contro gli amplificatori. Insomma, non sono stati i primi, ma il malessere era, come dire, sicuramente sincero. Intanto arriva l'89 e la popolarità della band comincia a crescere. Esce l'album Bleach, il nome deriva da una campagna pubblicitaria dell'epoca contro l'AIDS, che invitava i tossicodipendenti a pulire i loro aghi con la candeggina, in inglese bleach. In quel periodo Kurt Cobain conosce in un nightclub di Portland Courtney Love, che a quell'epoca è la leader, la cantante di una rock band che si chiama Hole. Lei ha 3 anni più di lui, è molto bella, è una ribelle, si innamorano, però la loro relazione è decisamente complicata, anche perché Courtney fa uso frequente di stupefacenti come Kurt e come un po' tutti lì in quel giro. And then at the truck stop the next day. E così il giorno dopo chiamai Corgan e gli dissi: sto uscendo con questo Kurt, è carino e soprattutto è molto bravo a letto. Eh beh, quando c'è l'amore. Intanto con Dave Grohl alla batteria e in Nirvana registrano Nevermind, il primo singolo, Smells Like Teen Spirit, e diventa un successo enorme, e in un certo senso questa canzone è l'inno della generazione grunge. È l'album della svolta, e le tracce di questo disco hanno riferimenti autobiografici, i testi li scrive tutti lui. In Nirvana diventano la più grande rock band dell'inizio degli anni 90. Kurt e Courtney si sposano alle Hawaii, avranno una bambina, che nonostante l'uso, insomma, di droga, fumo, alcol durante la gravidanza, avrà una vita sana. nascerà Francis Bean Cobain alle 7 del mattino del 18 agosto del 92 a Los Angeles. L'uscita di un articolo su Vanity Fair che accusa lei di far uso di eroina in gravidanza e racconta di un Kurt tossicodipendente crea il solito scandalo mediatico. Viene tolta addirittura la custodia della bambina ai genitori perché entrambi devono sottoporsi a disintossicazione e affrontare numerosi processi prima di poter riabbracciare la loro unica figlia. E sarà proprio lei, Francis, che oggi ha 24 anni, a produrre insieme alla madre, a Courtney Love, il primo documentario autorizzato dalla famiglia su Kurt Cobain. Un docufilm realizzato da Brett Morgan e presentato alla Berlinale, è uscito in poche sale, però sarà nel cinema anche a fine luglio. Il titolo: Kurt Cobain, Montage of Heck. Animo talmente sensibile che lui non regge la realtà. Il successo di Nevermind è planetario, l'album in utero del 93 ancora di più, e tutto questo lo fa sentire a disagio. Pensate che dal loro debutto oggi Nirvana hanno venduto 75 milioni di album nel mondo, ma questo per la vita di Kurt è stato un deterrente, è stato un incidente di percorso, perché la sua vita intanto è minata dalla depressione e dall'abuso di droga, e il successo è un onere molto difficile da gestire. Allora pensai, ecco, sto diventando un tossico, perché mi sentivo come un tossico ogni giorno, svegliarmi affamato e costringermi a mangiare, sentire dolore sempre, ovunque, urlare dolore, sempre. Kearney lo trova spesso privo di sensi, la situazione precipita, lei si preoccupa sempre di più. Era una relazione davvero basata al 100% sulla fiducia. Svenne. E allora cercai di svegliarlo dandogli delle sberle, gettandogli addosso cubetti di ghiaccio. Iniziò davvero a farmi arrabbiare. Perché lei, Kearney, l'ha sempre difeso, anche come padre, lo ha sempre descritto come affettuoso, dolce, legato alla figlia, almeno quando non è fatto. I loved my husband very much and I protected him a lot. Amavo molto mio marito e lo proteggevo anche molto. E poi bisogna mettersi nei panni di Franza. Per quel che ne sa, crederà di essere una buona a nulla. Lei non sa che suo padre l'amava davvero tanto. And he really loved her. Così arriva uno dei primi tentativi di suicidio, marzo 1994. La parola suicidio è sempre stata un'ossessione nella mente di Kurt. Quando era piccolo un suo prozio si era suicidato, da ragazzo aveva vissuto il suicidio di un compagno di scuola nella sua cittadina, e le persone che arrivavano a togliersi la vita non erano poche. Era così tanto che provavo dolore, che non me ne importava più nulla di stare nella band, di essere vivo. Ero un suicida, semplicemente non volevo più vivere. Al termine del tour europeo dei Nirvana nel 94, lui va a Roma per riposarsi, prende una suite all'Excelsior di Via Veneto, viene raggiunto dalla moglie e dalla figlia. Bene, una notte Kearney scopre che il marito è entrato in overdose. Nirvana frontman Kurt Cobain, who slipped into a coma and was hospitalized in Rome, Italy at about 6 a.m. this morning, was in a state of what his management calls complete collapse. His condition was apparently aggravated when he consumed champagne on top of a prescription painkiller called Rohypnol. Kurt Cobain viene portato al Policlinico Umberto I, viene salvato con un cocktail di farmaci, rimane in coma farmacologico, si riprenderà dopo qualche giorno. Il male di vivere, l'inutilità di una vita alienante sono i temi frequenti nelle sue canzoni. Quel disagio mai risolto lo porterà a scomparire dalla vista di sua moglie e di sua figlia a soli 27 anni. Torna negli Stati Uniti e si isola sempre più, fino alla fine. Ho una moglie divina che trasuda ambizione e empatia. E una figlia che mi ricorda troppo di quando ero come lei, pieno di amore e gioia. Bacia tutte le persone che incontra perché tutti sono buoni e nessuno le farà del male. E questo mi terrorizza a tal punto che perdo le mie funzioni vitali. Non posso sopportare l'idea che Francis diventi una miserabile, autodistruttiva rocker morta come me. 8 aprile del 1994. Lo troveranno nella sua casa di Seattle, disteso come se stesse dormendo. Lo ha ucciso un colpo di fucile Remington in bocca, proprio nel periodo di maggiore successo. Quel colpo lo ha sparato lui. Quella mattina l'elettricista Gary Smith arriva al numero 171 di Lake Washington Boulevard, che è la residenza dei Cobain. Deve dare un'occhiata per installare un nuovo sistema di sicurezza, come racconta Charles Cross nel libro Cobain, più pesante del cielo. Alle 8:40 di venerdì, Smith diede un'occhiata dentro la serra mentre ci passava accanto. Ho visto un corpo riverso per terra, l'ho scambiato per un manichino. Poi ho notato il sangue presso l'orecchio destro e un fucile sul torace puntato verso il mento, ha raccontato in seguito a un quotidiano. Smith chiamò la polizia e poi la sua ditta. Un amico del centralinista si incaricò di avvertire la stazione radio KXRX e disse al DJ: «Ehi, per una cosa del genere mi dovete regalare dei biglietti buoni per i Pink Floyd». L'autopsia troverà tracce di benzodiazepine e di eroina in circolo, tanto che forse sarebbe morto lo stesso anche senza premere il grilletto. Come in tutte le morti degli idoli del rock c'è chi crede al complotto, alcuni ipotizzano che ci sia addirittura un omicidio dietro, la mano di Kearney con cui negli ultimi tempi lui non andava d'accordo, magari per soldi, insomma. Mai una morte di una rockstar ha avuto un'unica versione. Quello che sappiamo è che Kurt lascia una lettera a Bodach. Vi ricordate? L'amico immaginario della sua infanzia. Mi è andata bene, molto bene durante questi anni, e ne sono grato. Ma è dall'età di 7 anni che sono avverso al genere umano, solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo troppo e mi rammarico troppo per la gente. Grazie a tutti voi dal fondo del mio bruciante, nauseato stomaco per le vostre lettere e il supporto che mi avete dato negli anni passati. Io sono troppo stravagante, lunatico, bambino e non ho più nessuna emozione. E ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Sì, mi sembra che non ci fossero molte vie d'uscita. In questa lettera Cobain cita la canzone di Neil Young, Hey My Mind to the Black, e quando dice It's better to burn out than to fade away, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. E una storia come quella dei Nirvana, in particolare di Kurt Cobain, era nata per bruciare in fretta. Credo fosse inevitabile e correlato alla stessa furia distruttrice che i Nirvana per alcuni anni contenevano all'interno della loro musica. Beh, un colpo d'ala, come spesso abbiamo raccontato, un colpo d'ala breve ma estremamente tormentato ma luminoso, quello dei Nirvana e quello di Kurt Cobain. Se avete altre storie da segnalarci, fatelo e noi aspettiamo le vostre annotazioni e i vostri consigli. Scriveteci al nostro sito, alle nostre pagine, nei miei social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.